Suonavamo per farli ballare, perché se balli non puoi morire e ti senti Dio. E suonavamo il ragtime, perché è la musica su cui Dio balla quando nessuno lo vede. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, signore e signori, madame e messie, benvenuti su questa nave, su questa città galleggiante che assomiglia in tutto e per tutto al Titanic. Calma, state seduti, signore laggiù si è toccato, è bellissimo. Benvenuti sull'oceano. A proposito, che ci fate qua? Una scommessa, avevate il creditore alle Calcagna. Siete in ritardo di una trentina d'anni sulla corsa all'oro. Volevate vedere la nave poi non vi siete accorti che era partita. Un attimo a comprare le sigarette, in questo momento vostra moglie è la polizia che dice era un uomo buono, normalissimo, in 30 anni mai in litigio, insomma che diavolo ci fate qua, a 300 miglia da ogni fottutissimo mondo e a 2 minuti dal prossimo conato di vento. Pardon madame, scherzavo, si fidi, se ne va questa nave come una biglia sul biliardo dell'oceano, tacca, ancora 6 ore, 2 giorni, 47 minuti e plop, in buca, New York. Non credo che ci sia bisogno di spiegarvi come questa nave sia in molti sensi una nave straordinaria e in definitiva unica. Al comando del capitano Smith, noto claustrofobo, e uomo di grande saggezza, avrete certo notato che vive in una cialuppa di salvataggio. Lavora per voi uno staff praticamente unico di professionisti assolutamente fuori dall'ordinario. Paul Sesinski, timoniere, ex sacerdote polacco, sensitivo, pranoterapeuta. Purtroppo cieco. Bill Young, marconista, grande giocatore di scacchi, mancino, balbuziente. Il medico di bordo, dottor Klausermann Spitzwegens Dorfenstag. Avete urgenza a richiamarlo, siete fregati. Ma soprattutto, Monsieur Pardin, lo chef, direttamente proveniente da Parigi. Come peraltro è subito tornato dopo aver verificato di persona la curiosa circostanza che vede questa nave priva di cucine. Come ha robustamente notato tra gli altri Monsieur Camembert, cabina 12, già gli si è lamentato per aver trovato i lavabo pieno di maionese. Cosa strana, perché di solito nei lavabi teniamo gli affettati, questo per via dell'inesistenza delle cucine. Cosa a cui va attribuita tra l'altro l'assenza su questa nave di un vero cuoco, quale certamente era Monsieur Pardin. Subito tornato a Parigi, da cui proveniva direttamente nell'illusione di trovare qui sopra delle cucine che invece a rimanere fedele ai fatti non ci sono. E questo grazie alla spiritosa dimenticanza del progettista di questa nave, l'insigne ingegner Camilleri, anoressico di fama mondiale. Qui prego di indirizzare il vostro più caloroso applauso. Credetemi, non ne troverete altre di navi così. Forse, se cercherete per anni, vi troverete un capitano claustrofobico, un timoniere cieco, un marconista balbuziente, un dottore dal nome impronunciabile, tutti sulla stessa nave senza cucine, può darsi. Ma quel che non vi succederà più, potete giurarci, e di stare lì seduti col culo su 10 centimetri di poltrona e centinaia di metri d'acqua nel cuore dell'oceano, con davanti agli occhi il miracolo, e nelle orecchie la meraviglia, e nei piedi il ritmo, e nel cuore il sound dell'unica, inimitabile, infinita Atlantic Jazz Band! Al clarinetto, Sam Sleepy Washington! Al banjo, Oscar della Guerra! Alla tromba, Gene Tunney! Trombone, Jim Jim Brett Gallup! Alla chitarra, Samuel Hawkins! E infine, al piano, Danny Boothman T.D. Lemon 900, il più grande. Lo era davvero il più grande. Noi suonavamo musica. Lui era qualcosa di diverso. Lui suonava... Non esisteva quella roba prima che la suonasse lui, ok? Non c'era da nessuna parte. E quando lui si alzava dal piano, non c'era più. Non c'era più per sempre. Danny Boothman, T.D. Lemon 900. L'ultima volta che l'ho visto, era seduto su una bomba, sul serio. Stava seduto su una carica di dinamite grande così. Una lunga storia. Lui diceva: non sei fregato veramente finché hai da parte una buona storia e qualcuno a cui raccontarla. Lui l'aveva, una buona storia. Lui era la sua buona storia, pazzesca a ben pensarci, ma bella. E quel giorno, seduto su tutta quella dinamite, me l'ha regalata, perché ero la sua più grande amica io. E poi ne ho fatte di fesserie. Se mi metto la testa in giù non esce più niente dalle mie tasche, anche la tromba mi sono venduto tutto. Ma quella storia no, sta sempre qui, limpida e inspiegabile. Come solo era la musica, quando in mezzo all'oceano la suonava il pianoforte magico, Danny Goodman, T.D. Lemon, 900. A trovarlo era stato un marinaio che si chiamava Danny Goodman. Lo trovò un mattino che erano già tutti scesi a Boston. Lo trovò in una scatola di cartone. Avrà avuto 10 giorni, non di più. Neanche piangeva. Se ne stava silenzioso, con gli occhi aperti in quello scatolone. L'avevano lasciato nella sala da ballo di prima classe, sul pianoforte. Non aveva l'aria, però, di essere un neonato di prima classe. Quelle cose le facevano gli emigranti, di solito. Partorire di nascosto, da qualche parte del ponte, poi lasciare lì i bambini. Mica per cattiveria. Era miseria quella. Miseria nera, un po' come la storia dei vestiti. Salivano, che avevano le pezze al culo, ognuno col suo vestito, consumato dappertutto, l'unico che ci avevano. Poi però, dato che l'America era sempre l'America, li vedevi scendere alla fine, tutti ben vestiti, con la cravatta, anche gli uomini. E i bambini, con certe camiciole bianche, insomma, ci sapevano fare. In quei 20 giorni di viaggio cucivano, tagliavano. Alla fine non trovavi più una tenda sulla nave, più un lenzuolo, niente. Si erano fatti il vestito buono per l'America, a tutta la famiglia. Potevi mica dirgli niente. Insomma, ogni tanto ci scappava anche il bambino, che per un emigrante è una bocca in più da sfamare e un sacco di grane all'ufficio immigrazione. Li lasciavano sulla nave in cambio delle tende e delle lenzuola. In certo senso. Con quel bambino doveva essere andata così. Dovevano essersi fatti un ragionamento. Se lo lasciamo sul pianoforte a coda, nella sala da ballo di prima classe, magari lo prende qualche riccone e sarà felice tutta la vita. Era un buon piano. Funzionò a metà. Non diventò ricco, ma pianista sì. Il migliore. Comunque, il vecchio Goodman lo trovò là. Cercò qualcosa che dicesse chi era, ma trovò soltanto una scritta sul cartone della scatola, stampata con inchiostro blu. T.D. Limoni. C'era anche una specie di disegno di un limone, blu, anche lui. Danny era un negro di Filadelfia, un gigante d'uomo che era una meraviglia. Pigliò il bambino in braccio e gli disse: «Hello, Lemon!» E gli scattò qualcosa dentro, qualcosa come la sensazione che era diventato padre. Per tutta la vita continuò a sostenere che quel TD significava evidentemente thanks Danny, grazie Danny. Era assurdo, ma lui ci credeva davvero. L'avevano lasciato lì per lui quel bambino, ne era convinto. TD, thanks Danny. Un giorno gli portarono un giornale su cui c'era la reclame di un uomo con un faccione idiota e dei baffi fini, fini, da Latin Lover, e c'era disegnato un limone, grande così, e vicino alla scritta diceva: Tano D'Amato, il re dei limoni. Tano D'Amato, limoni da re, e non so quale attestato, o premio, o cosa. Tano D'Amato. Il vecchio Goodman non fece una piega. Chi è questo frocio? Chiese. E si fece dare il giornale, perché di fianco alla reclame c'erano i risultati delle corse. Non che ci giocasse alle corse, gli piacevano i nomi dei cavalli, tutto lì. Aveva una vera passione. Di chi vinceva non gliene importava niente, erano i nomi che gli piacevano. E quel bambino incominciò a dare il suo di nome, Danny Goodman. L'unica vanità che si concesse in tutta la vita. E poi ci aggiunse T.D. Lemon, proprio uguale alla scritta che c'era sul cartone della scatola, perché diceva che faceva fine avere delle lettere in mezzo al nome. Tutti gli avvocati ce l'hanno, confermò Barty Bum, che era un macchinista che era finito in galera grazie a un avvocato che si chiamava John P.T.K. Wonder. Se fa l'avvocato lo ammazzo, sentenziò il vecchio Bootman. Però poi le due iniziali ce le lasciò nel nome. E così venne fuori Danny Bootman T.D. Lemon. Era un bel nome. Lo studiarono un po', ripetendo a bassa voce, il vecchio Danny e gli altri, giù in sala macchine, con le macchine spente, a mollo nel porto di Boston. È un bel nome, disse alla fine il vecchio Bootman. Però gli manca qualcosa. Gli manca un gran finale. Era vero, gli mancava un gran finale. Aggiungiamo martedì, disse Sam Stahl, che faceva il cameriere. L'hai trovato martedì? Chiamalo martedì. Danny ci pensò un po' e poi sorrise. È un'idea buona, Sam. L'ho trovato nel primo anno di questo nuovo fottutissimo secolo, no? Lo chiamerò 900. È un numero. Era un numero. Adesso è un nome. Danny Bootman T.D. Lemon 900. È perfetto. È bellissimo. Un gran nome, Cristo. Davvero un gran nome. Andrà lontano con un nome così. Si chinarono sulla scatola di cartone. Danny Bootman T.D. Lemon 900 li guardò e sorrise. Loro rimasero di stucco. Nessuno si aspettava che un bambino così piccolo potesse fare tutta quella merda. Danny Bootman fece ancora il marinaio per 8 anni, 2 mesi e 11 giorni. Poi, durante una burrasca in pieno oceano, si prese una carrucola impazzita in mezzo alla schiena. Ci mise 3 giorni a morire. Era rotto dentro, non c'era verso di rimetterlo insieme. 900 era un bambino allora. Si sedette vicino al letto di Danny e da lì non si mosse più. Aveva una pila di giornali vecchi e per 3 giorni, facendo una fatica bestiale, lesse al vecchio Danny, che stava tirando le cuoia, tutti i risultati delle corse che poteva. Metteva insieme le lettere, come Danny gli aveva insegnato, col dito premuto sulla carta del giornale e gli occhi che non mollavano un istante. Leggeva lentamente, ma leggeva. Così il vecchio Danny morì sulla 6ª corsa di Chicago, vinta da Acqua Potabile, con 2 lunghezze su minestrone e 5 su fondotinta blu. Il fatto che non riuscì a non ridere a quei nomi. E ridendo, schiattò. Lo avvolsero in un telone e lo restituirono all'oceano, sul telone con una scritta rossa. Il capitano scrisse: "Thanks, Danny." The wheels are turning, the steam keeps on rising. Oh Lord, send down your light today. Thanks, Danny. Così, d'improvviso, 900 divenne orfano per la seconda volta. Aveva 8 anni e si era già fatto avanti e indietro dall'Europa all'America una 50ina di volte. L'oceano era casa sua. Quanto alla terra, non ci aveva mai messo piede. L'aveva vista dai porti, certo, ma sceso mai. Il fatto è che Danny aveva paura che glielo portassero via con qualche storia di documenti e visti e cose del genere. Così 900 rimaneva a bordo, sempre. E poi a un certo punto si ripartiva. A voler essere precisi, 900 non esisteva nemmeno per il mondo. Non c'era città, parrocchia, ospedale, galera, squadra di baseball che avesse scritto da qualche parte il suo nome. Non aveva patria, non aveva data di nascita, non aveva famiglia. Aveva 8 anni, ma ufficialmente non era mai nato. Non potrà continuare a lungo questa storia, dicevano ogni tanto a Danny. Oltretutto è anche contro la legge. Ma Danny aveva una risposta che non faceva una piega. In culo la legge. Non è che si potesse discutere un granché, con quella partenza. Quando arrivarono a Southampton, alla fine del viaggio in cui Danny morì, il capitano decise che era ora di farla finita con quella storia e così chiamò le autorità portuali e disse al suo vice che gli andasse a prendere 900. Beh, non lo trovò mai. Lo cercarono per tutta la nave, per 2 giorni. Niente, era sparito. Non andava giù a nessuno quella storia, perché, insomma, lì sul Virginian si erano abituati a quel ragazzino e nessuno osava dirlo, ma ci vuol poco a buttarsi dalla murata e poi il mare fa quel che vuole. E così ci avevano la morte nel cuore quando 22 giorni dopo ripartirono per Rio de Janeiro senza che 900 fosse tornato o si fosse saputo qualcosa di lui. Stelle filanti e sirene, fuochi d'artificio alla partenza come tutte le volte, ma era diverso. Quella volta stavano per perdere 900 ed era per sempre. Qualcosa gli rosicchiava il sorriso a tutti e gli mordeva dentro. La seconda notte di viaggio, che non si vedevano nemmeno più le luci della costa irlandese, Danny, il Nostromo, entrò come un pazzo nella cabina del comandante, svegliandolo, dicendogli che doveva assolutamente venire a vedere. Il comandante bestemmiò, ma poi andò. Salone da ballo della prima classe, luci spente. Gente in pigiama, in piedi, all'ingresso, passeggeri usciti dalla cabina e poi marinai e 3, tutti neri, saliti dalla sala macchine. E anche Truman, il marconista, tutti in silenzio a guardare. 900. Stava seduto sul seggiolino del pianoforte, con le gambe che penzolavano giù, non toccavano nemmeno per terra. E come vero Dio, stava suonando. Suonava non so che diavolo di musica, ma piccola e bella. Non c'era trucco, era proprio lui a suonare, le sue mani, su quei tasti, bisognava sentire poi cosa gli usciva fuori. C'era una signora in vestaglia rosa e certe pinzette nei capelli, una piena di soldi, per capirsi, la moglie americana di un assicuratore. Beh, aveva dei lacrimoni così che le scendevano sulla crema da notte, guardava e piangeva, non la smetteva più. E quando si trovò il comandante di fianco, bollito dalla sorpresa, lui letteralmente bollito, quando se lo trovò di fianco, tirò su col naso, la riccona dico, tirò su col naso. E indicando il pianoforte gli chiese, come si chiama? 900. Non la canzone, il bambino. 900. Oh, come la canzone? Era quel genere di conversazione che un comandante di marina non può sostenere più di 4-5 battute. Soprattutto quando ha appena scoperto che un bambino che credeva morto non solo era vivo, ma nel frattempo aveva anche imparato a suonare il pianoforte. Lasciò la riccona lì dov'era, con le sue lacrime e tutto il resto, attraversò a passi decisi il salone, pantaloni del pigiama e giacca della divisa non abbottonata. Si fermò solo quando arrivò al pianoforte. Avrebbe voluto dire molte cose in quel momento, tra le altre, dove cazzo ha imparato? O anche, dove diavolo ti eri nascosto? Però, come tanti uomini abituati a vivere in divisa, aveva finito per pensare anche in divisa, così quel che disse fu 900. Tutto questo è assolutamente contrario al regolamento. 900 smise di suonare. Era un ragazzino di poche parole e di grande capacità di apprendimento. Guardò con dolcezza il capitano e disse «In culo il regolamento». Primo viaggio, prima burrasca. Sfiga. Neanche avevo ben capito com'era il giro, che mi becca una delle burrasche più micidiali nella storia del Virginia. In piena notte. Gli sono girati i coglioni e via. Ha dato il giro al tavolo l'oceano e sembrava che non finisse più. Ora, una che su una nave suona la tromba, non è che quando arriva la burrasca possa fare un granché. Può giusto evitare di suonare la tromba, tanto per non complicare le cose. E starsene buona nella sua cuccetta. Ma io non ci resistevo là dentro. Hai un bel distrarti, ma puoi giurarci. Prima o poi ti arriva dritto nel cervello quella frase. ha fatto la fine del topo. No, io non la volevo fare, la fine del topo. E quindi me ne andai fuori da quella cabina e mi misi a vagare, ma mica sapevo dove andare. C'ero da 4 giorni su quella nave, era già qualcosa se trovavo la strada per i gabinetti. Oh, sono piccole città galleggianti quelle, davvero. Insomma, è chiaro, sbattendo da tutte le parti e prendendo corridoi a casaccio, come veniva. Alla fine mi persi, era fatta, definitivamente, fottuta. Fu a quel punto che arrivò uno, tutto vestito elegante, in scuro. Camminava tranquillo, mica con l'aria di essersi perso. Sembrava non sentire nemmeno le onde, come se passeggiasse sul lungomare di Nizza. Era 900. Aveva 27 anni allora, ma sembravano di più. Io lo conoscevo appena, ci avevo suonato in quei 4 giorni con la band, ma nient'altro. Non sapevo neanche dove stesse di cabina. Certo, gli altri qualcosa mi avevano raccontato di lui, eh. Dicevano una cosa strana. Dicevano, 900 non è mai sceso da qua. È nato su questa nave e da allora ci è rimasto sempre. 27 anni senza mai mettere piede a terra. Detta così, c'aveva tutta l'aria di essere una palla colossale. Dicevano anche che suonava una musica che non esisteva. Quello che sapevo io era che tutte le volte, prima di iniziare a suonare lì in sala da ballo, Fritz Herrmann, un bianco che non capiva niente di musica, ma aveva una bella faccia, per cui dirigeva la band, gli si avvicinava e gli diceva: 900, per favore, solo le note normali, ok? 900 faceva sì con la testa e suonava le note normali, guardando sempre fisso davanti a sé, mai un'occhiata alle mani. Sembrava che stesse tutto da un'altra parte. Adesso so che ci stava, in effetti, tutto da un'altra parte, ma allora non lo sapevo. Pensavo che fosse un po' strano, tutto lì. Insomma, quella notte, nel bel mezzo della burrasca, con quell'aria da signore in vacanza, mi trovò là, persa in un corridoio qualunque, con la faccia di un morto. Mi guardò, sorrise e mi disse: vieni. Ora, sei una che su una nave suona la tromba, incontra nel bel mezzo di una burrasca uno che le dice vieni. Quella che suona la tromba può fare una cosa sola: andare. Gli andai dietro. Camminava lui, eh? Io, beh, non avevo quella compostezza, ma comunque arrivammo nella sala da ballo e rimbalzando di qua e di là, io ovviamente, perché lui sembrava avesse i binari sotto i piedi, arrivammo vicino al pianoforte. Non c'era nessuno in giro. Quasi buio, solo qualche lucina qua e là. 900 mi indicò le zampe del pianoforte. Togli i fermi, mi disse. La nave ballava che era un piacere. Facevi fatica a stare in piedi. Era una cosa senza senso sbloccare quelle rotelle. Se ti fidi di me, toglili. Questo è matto, pensai. E li tolsi. E adesso vieni a sederti qua, mi disse allora 900. Non lo capivo dove voleva arrivare, proprio non lo capivo. Stavo lì a tenere fermo quel pianoforte che incominciava a scivolare come un enorme sapone nero. Era una situazione di merda, giuro. Dentro alla burrasca fino al collo e in più quel matto seduto sul suo seggiolino, un altro bel sapone, e le mani sulla tastiera, ferme. Se non sali adesso, non sali più, disse il matto, sorridendo. Ok, mandiamo tutto in merda. Ok, tanto cosa c'è da perdere? Ci salgo. D'accordo, ecco. Tutto stupido seggiolino. E adesso? E adesso non avere paura. E si mise a suonare. Ora, nessuno è costretto a crederci, eh? E io, a essere precisi, non ci crederei mai se me lo raccontassero. Ma la verità dei fatti è che quel pianoforte incominciò a scivolare. sul legno della sala da ballo. E noi dietro a lui, Con 900 che suonava e non staccava lo sguardo dai tasti, sembrava altrove. E il piano seguiva le onde. E andava e tornava. E si girava su se stesso, puntava dritto alla vetrata e quando era arrivato a un pelo si fermava e scivolava dolcemente indietro. Dico, sembrava che il mare lo cullasse e cullasse noi e non ci capivano accidenti. E 900 suonava e non smetteva un attimo ed era chiaro, lui non suonava semplicemente, lui lo guidava quel pianoforte, capito? Coi tasti, con le note, non so, lui lo guidava dove voleva. Era assurdo, ma era così. E mentre volteggiavamo fra i tavoli, sfiorando lampadari e poltrone, io capii che in quel momento quel che stavamo facendo, quel che davvero stavamo facendo, era danzare con l'oceano. Noi e lui, ballerini pazzi e perfetti, stretti in un torbido blues, sul dorato parquet della notte. Oh yes! Oh Cristo! Novecento disse che doveva ancora perfezionarlo quel trucco. Io dissi che in fondo si trattava proprio solo di registrare i freni. Il capitano, finita la burrasca, disse: porco di un demonio, voi due adesso finite in sala macchine e ci restate, perché sennò vi uccido con queste mani. E sia chiaro che pagherete tutto fino all'ultimo centesimo, doveste lavorare tutta la vita. Com'è vero che questa nave si chiama Virginian e voi siete i due più grandi imbecilli che abbiano mai solcato l'oceano? Laggiù in sala macchine, quella notte, 900 e io diventammo amici per la pelle e per sempre. Passammo tutto il tempo a contare quanto poteva fare in dollari, tutto quello che avevamo rotto. E più il conto saliva, più ridevamo. E se ci ripenso, mi sembra che era quella cosa lì, essere felici. O una cosa del genere. Fu in quella notte che gli chiesi se quella storia era vera, quella di lui e la nave. Insomma, che c'era nato sopra e tutto il resto. Se era vero che non era mai sceso da lì. E lui mi disse, sì, ma vero veramente? Lui era tutto serio. Vero veramente? E io non so, però in quel momento, quello che sentii dentro, per un istante, senza volerlo, e non so perché, ma fu un brivido. Ed era un brivido di paura. Una volta chiese a 900 a cosa diavolo pensava mentre suonava, cosa guardava sempre fisso davanti a sé, insomma dove finiva con la testa mentre le mani gli andavano avanti e indietro sui tasti. E lui mi disse: oggi sono finito in un paese bellissimo, le donne avevano i capelli profumati, c'era luce dappertutto ed era pieno di tigri. Viaggiava lui, e ogni volta finiva in un posto diverso, su un treno, in mezzo alla campagna, nel centro di Londra, su una montagna così alta che la neve ti arrivava alla pancia, nella chiesa più grande del mondo, a contare le colonne, guardare in faccia i crocifissi. Viaggiava. Era difficile capire cosa mai potesse saperne lui di chiese, di neve e di tigri. Voglio dire, non c'era mai sceso da quella nave, proprio mai. Non era una palla, era tutto vero, mai sceso. Eppure era come se l'avesse vista tutte quelle cose. 900 era uno che se tu gli chiedevi, sono stato a Parigi, lui ti diceva subito se avevi visto il giardino tal dei tali o se avevi mangiato in quel dato posto, sapeva tutto. Ti diceva, quello che a me piace laggiù è aspettare il tramonto andando avanti e indietro sul Pont Neuf e quando passano le chiatte fermarmi e guardarle da sopra e salutare con la mano. 900, ci sei mai stato a Parigi tu? No. E allora? Cioè sì, qualsiasi cosa. Parigi. Potevi pensare che era matto. Non era così semplice. Perché se uno ti racconta con assoluta esattezza che odore c'è in Bertram Street d'estate quando ha appena smesso di piovere, non puoi pensare che sia matto per la sola stupida ragione che lui in Bertram Street non c'è mai stato. Nella faccia di qualcuno, negli occhi di qualcuno, lì quell'aria l'aveva respirata davvero, a modo suo, ma davvero. Il mondo magari non l'aveva visto mai, ma erano 27 anni che il mondo passava su quella nave ed erano 27 anni che lui su quella nave lo spiava e gli rubava l'anima. In questo era un genio, niente da dire. Ci vollero degli anni, ma però un giorno io presi il coraggio a quattro mani e glielo chiesi. 900, perché Cristo non scendi una volta, anche solo una volta? Perché non lo vai a vedere il mondo con gli occhi tuoi, proprio i tuoi? Perché te ne stai su questa galera viaggiante? Tu potresti startene sul tuo Pont-Neuf, a guardare le chiatte e tutto il resto. Tu potresti fare quello che vuoi. Suoni il pianoforte da Dio, impazzirebbero per te, ti faresti un sacco di soldi e potresti costruirti la casa più bella che c'è. Puoi anche farti la forma di nave, che ti frega, ma te la metteresti dove vuoi, in mezzo alle tigri magari o in Bertram Street, Dio santo. Non potrai continuare tutta la vita ad andare avanti e indietro come uno scemo. Tu non sei scemo, tu sei grande e il mondo è là. C'è solo quella fottuta scaletta da scendere, cosa sarà mai? Qualche stupido gradino, Cristo. C'è tutto alla fine di quei gradini, tutto. 900, perché non la fai finita? E te ne scendi una volta almeno, una sola volta. 900, perché non scendi? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Fu d'estate, nell'estate del 1932. Che sul Virginian salì Jelly Roll Morton, tutto vestito di bianco, anche il cappello, e un diamante così, al dito. Lui era uno che quando faceva i concerti scriveva sui manifesti: stasera Jelly Roll Morton, l'inventore del jazz. Non lo scriveva così per dire, ne era convinto, l'inventore del jazz. Suonava il pianoforte, sempre un po' seduto di tre quarti e con due mani, che erano farfalle, leggerissime. Aveva iniziato nei bordelli di New Orleans, aveva imparato lì a sfiorare i tasti, a carezzare note, facevano l'amore al piano di sopra, non volevano baccano, volevano una musica che scivolasse dietro le tende e sotto i letti, senza disturbare. Lui faceva quella musica lì, e in quello veramente era il migliore. Qualcuno da qualche parte gli disse di 900, dovettero dirgli una cosa tipo quello. È il più grande pianista del mondo. Non può sembrare assurdo, ma era una cosa che poteva succedere. Non aveva suonato mai una sola nota fuori dal Virginia 900, eppure era un personaggio a suo modo celebre ai tempi, una piccola leggenda. Quelli che scendevano dalla nave raccontavano di una musica strana e di un pianista che sembrava avesse quattro mani, tante note faceva. Insomma, qualcuno andò da Jelly Roll Morton e gli disse: su quella nave c'è uno che col piano fa quello che vuole e quando ha voglia suona il jazz. Ma quando non ha voglia suona una cosa che è come 10 jazz messi insieme. Jelly Roll aveva un caratterino, disse: come fa a suonare bene uno che non ha nemmeno le palle per scendere già una stupida nave e giù a ridere come un matto? Lui, l'inventore del jazz, poteva finire lì. Solo che a quel punto uno disse: fai bene a ridere, perché se solo quello si decide a scendere, tu torni a suonare nei bordelli, come vero Dio, nei bordelli. Jelly Roll smise di ridere, tirò fuori dalla tasca una piccola pistola col calcio di madrepedra, la puntò alla testa del tizio che aveva parlato e non sparò, però disse: dov'è sto cazzo di nave? Quello che aveva in mente era un duello. Si usava allora, si sfidavano a colpi di pezzi di bravura, alla fine uno vinceva, cose da musicisti, niente sangue, ma un bel po' di odio vero, sotto la pelle, note e alcol, poteva anche durare una notte intera. Era quella cosa lì che aveva in mente Jelly Roll. Per farla finita con sta storia del pianista sull'oceano e tutte ste palle, per farla finita. Il problema era che 900, a dire il vero, nei porti non suonava mai, non voleva suonare. Erano già un po' terra i porti e non gli andava. Lui suonava dove voleva lui. E dove voleva lui era in mezzo al mare, quando la terra è solo più luci lontane, o un ricordo, o una speranza. Era fatto così. Jelly Roll bestemmiò mille volte, ma poi pagò di tasca sua il biglietto di andata e ritorno per l'Europa e salì sul Virginia. Lui, ma che non aveva mai messo piede su un traghetto che facesse da sponda a sponda del Mississippi, soffriva pure di mal di mare. È la cosa più idiota che io abbia mai fatto in vita mia. Disse con qualche bestemmia in mezzo ai giornalisti che andarono a salutarlo al molo 14 del porto di Boston. E poi si chiuse in cabina, aspettò che la terra diventasse luci lontane e ricordo e speranza. 900 lui non è che si interessasse molto alla cosa, non la capiva neanche tanto bene. Un duello. E perché? Però era curioso. Voleva sentire come diavolo suonava l'inventore del jazz. Non lo diceva per scherzo, eh? Ne era convinto che fosse davvero l'inventore del jazz. Io credo che avesse in mente di imparare qualcosa. Qualcosa di nuovo. Era fatto così lui, un po' come il vecchio Danny. Non aveva il senso della gara. Non gli fregava niente sapere che vinceva. Era il resto che lo stupiva. Tutto il resto. Alle 21:37 del secondo giorno di navigazione, col Virginian spedito a 20 nodi sulla rotta per l'Europa, Jelly Roll Morton si presentò nella sala da ballo di prima classe elegantissimo, in nero. Tutti sapevano benissimo cosa fare. I ballerini si fermarono, noi della band posammo gli strumenti, il barman versò un whisky, la gente ammutolì. Jelly Roll prese il whisky, si avvicinò a 900 e lo guardò negli occhi. Non disse nulla, ma quello che si sentì nell'aria fu: alzati da lì. 900 si alzò. Lei è quello che ha inventato il jazz, vero? Già. E tu sei quello che suona solo se ha l'oceano sotto il culo, vero? Già, si erano presentati. Jelly Roll prese una sigaretta, se l'accese, l'appoggiò in bilico sul bordo del pianoforte, si sedette e iniziò a suonare. Ragtime. Era qualcosa mai sentito prima. Non suonava, scivolava. Era come una sottoveste di seta che scivolava via dal corpo di una donna e lo faceva ballando. C'erano tutti i bordelli d'America in quella musica, ma i bordelli, quelli di lusso, quelli dove è bella anche la guardarobiera. Jelly Roll finì ricamando delle notine invisibili in alto alla fine della tastiera, come una piccola cascata di perle su un pavimento di marmo. La sigaretta era sempre lì, sul bordo del pianoforte. Mezza consumata, ma la cenere era ancora tutta lì. Avresti detto che non aveva voluto cadere per non far rumore. Jelly Roll prese la sigaretta, aveva mani che erano farfalle, l'ho detto. Prese la sigaretta e la cenere se ne stette lì. Proprio non voleva sapere di cadere, forse c'era anche un trucco, non so, certo non cadeva. Si girò, si avvicinò a 900, gli mise la sigaretta sotto il naso, lei tutta la sua cenere, bella ordinata, e disse: tocca a te, marinaio. 900 sorrise. Sul serio, si stava divertendo. Si girò, si sedette al piano e fece la cosa più stupida che poteva fare. Suonò Torna indietro Paparino, una canzone di un'idiozia infinita, una roba da bambini. L'aveva sentita anni prima da un emigrante, da allora non se l'era più tolta da addosso. Gli piaceva, veramente. Io non so cosa ci trovasse, ma gli piaceva, la trovava commovente, da pazzi. Certo non era quello che si direbbe un pezzo di bravura, volendo l'avrei saputa suonare perfino io. Lui la suonò giocando un po' coi bassi, raddoppiando qualcosa, aggiungendo due o tre svolazzi dai suoi, ma insomma era un'idiozia. E un'idiozia rimase. Jelly Roll Morton aveva la faccia di uno a cui avevano rubato i regali di Natale. Fulminò 900 con due occhi da lupo e si risedette al piano. Staccò un blues che avrebbe fatto piangere anche un macchinista tedesco. Sembrava che tutto il cotone di tutti i negri del mondo fosse lì e lo raccogliesse lui con quelle note, una cosa da lasciarci l'anima. Tutta la gente si alzò in piedi, tirava su col naso, applaudiva. Gelirò non fece nemmeno un accenno d'inchino, niente. Si vedeva che stava per averne piene le palle di tutta quella storia. Toccava di nuovo a 900. Già partì male, perché si sedette al piano con negli occhi due lacrimoni così, per via del blues. Si era commosso. E questo si può anche capire. Il vero assurdo fu che con tutta la musica che aveva in testa e nelle mani, cosa gli venne in mente di suonare? Il blues che aveva appena sentito. Era così bello, mi disse poi il giorno dopo per giustificarsi. Ma pensa a te. Proprio non aveva la minima idea di cosa fosse un duello, non aveva la minima idea. Suonò quel blues. Per di più nella sua testa si era trasformato in una serie di accordi lentissimi, uno dopo l'altro, in processione, una noia micidiale. Lui suonava tutto accartocciato sulla tastiera. Se li godeva a uno quegli accordi, anche strani oltretutto. Roba dissonante. Lui se li godeva proprio. Gli altri, meno. Quando finì, partì perfino qualche fischio. Fu a quel punto che Jelly Roll Morton perse definitivamente la pazienza. Più che andare al piano, ci saltò sopra. E tra sé e sé, in modo che tutti capissero benissimo, sibilò poche parole molto chiare. E allora vai a fare in culo, coglione. Poi attaccò a suonare. Ma suonare non è la parola. Un giocoliere, un acrobata. Tutto quello che si può fare con una tastiera di 88 tasti, lui la fece a una velocità mostruosa, senza sbagliare una nota, senza muovere un muscolo della faccia. Non era nemmeno musica. Erano giochi di prestigio. Era magia bella e buona. Era una meraviglia. Non c'erano santi, una meraviglia. La gente diede di matto. Urlavano, applaudivano, una cosa così. Non l'avevano mai vista. C'era un casino che sembrava Capodanno. E in quel casino mi trovai davanti a 900. Aveva la faccia più delusa del mondo. E anche un po' stupita. Mi guardò e mi disse, ma quello è completamente scemo. Non gli risposi. Non c'era niente da rispondere. Si piegò verso di me e mi disse, dammi una sigaretta, va. Io ero talmente stranita che la presi e gliela diedi. Voglio dire, 900 non fumava. Non aveva mai fumato prima. Prese la mia sigaretta e andò a sedersi al piano. Ci misero un po' in sala ad accorgersi che si era seduto e che magari voleva suonare. Ci scapparono anche un paio di battute pesanti e risate, qualche fischio. La gente fa così. È cattiva con quelli che perdono. 900 aspettò paziente che ci fosse una specie di silenzio intorno. Poi gettò un'occhiata a Jelly Roll che se ne stava in piedi al bar a bere da una coppa di champagne. E sottovoce disse, l'hai voluto tu, pianista di merda. Poi appoggiò la mia sigaretta sul bordo del piano. E iniziò. Così. Il pubblico si beve tutto senza respirare, tutto in apnea, con gli occhi inchiodati al piano, la bocca aperta come dei perfetti imbecilli. Rimasero così, in silenzio, completamente tronati. Anche micidiale scarica finale di accordi che sembrava avesse 100 mani, sembrava che il piano dovesse scoppiare da un momento all'altro. In quel silenzio perfetto, 900 si alzò, prese la mia sigaretta, si sporse un po' in avanti oltre la tastiera e la avvicinò alle corde del piano. La ritirò fuori da lì ed era accesa. Lui la teneva in mano come fosse una piccola candela, non fumava, non sapeva neanche tenerla tra le dita. Fece qualche passo e arrivò davanti a Jelly Roll morto. Fumala tu, io non son buono. Fu lì che la gente si risvegliò dall'incantesimo. Venne giù un'apoteosi di grida, applausi, casino, non so, non si era mai vista una cosa del genere. Tutti urlavano, tutti volevano toccare 900. Un bordello generale, non si capiva più niente. Ma io però lo vidi lì in mezzo, Jelly Roll Morton, fumare nervosamente quella maledetta sigaretta, cercando la faccia da fare, senza trovarla, non sapeva nemmeno bene dove guardare. E a un certo punto la sua mano di farfalla si mise a tremare. Tremava proprio, io lo vidi e non me lo dimenticherò mai. Tremava così tanto che a un certo punto la cenere della sigaretta si staccò e cadde prima sul suo bell'abito nero e poi scivolando fin sulla scarpa destra. Scarpa di vernice nera, brillante, quella cenere come uno sbuffo bianco. Puff. Lui la guardò, guardò la scarpa, la vernice e la cenere e capì. Quello che c'era da capire, lo capì. Si girò su se stesso e, camminando piano, passo dopo passo, ma così piano da non muovere quella cenere da lì, attraversò la grande sala e se ne sparì con le sue scarpe di vernice nera. E su una c'era uno sbuffo bianco e lui se lo portava via. E lì c'era scritto che uno aveva vinto e non era lui. Jelly Roll Morton passò il resto del viaggio chiuso nella sua cabina. Arrivati a Southampton, scese dal Virginia e il giorno dopo ripartì per l'America. Su un'altra nave, però. Non voleva più saperne di 900 e di tutto il resto. Voleva tornare. E basta. Dal ponte di terza classe, appoggiato alla murata, 900 lo vide scendere, col suo bel vestito bianco e tutte le valigie belle, di cuoio chiaro. E mi ricordo che disse soltanto: «E in culo anche il jazz». Liverpool, New York. Liverpool, Rio de Janeiro, Antille, New York, Liverpool, oceano, proprio in mezzo. E lì, a quel punto, cadde il quadro. A me mi ha sempre colpito questa faccenda dei quadri. Stanno su per anni, poi senza che accada nulla, ma nulla dico, frrrà, giù, cadono. Stanno lì attaccati al chiodo, nessuno gli fa niente, ma loro a un certo punto, frrrà, cadono giù, come sassi. Nel silenzio più assoluto, con tutto immobile intorno, non una mosca che vola. E loro, frrrà, cioè... Cos'è che succede a un chiodo per farlo decidere che non ne può più? C'ha un'anima anche lui, poveretto? Prende delle decisioni? Ne ha discusso a lungo col quadro. Erano incerti sul da farsi, ne parlavano tutte le sere, da anni. Poi hanno deciso. Una data, un'ora, un minuto, un istante. È quello. Fran. Ma lo sapevano già dall'inizio i due. Era tutto combinato, va là. Senti, io mollo tutto fra 7 anni. Per me va bene. Ok? Allora intesi per il 13 maggio. Ok. Verso le 6. Facciamo 6:15. D'accordo. Allora, Buonanotte. Notte. Oh, 7 anni dopo. 13 maggio. 6:15. Fran! Non si capisce. È una di quelle cose che è meglio che non ci pensi, perché sennò ci esci matto. Quando cade un quadro. Quando ti svegli un mattino e non lo ami più. Quando apri un giornale e leggi è scoppiata la guerra. Quando vedi un treno e pensi io devo andarmene da qui. Quando ti guardi allo specchio e ti accorgi che sei vecchio. Quando in mezzo all'oceano 900 alzò lo sguardo dal piatto e mi disse: fra 3 giorni a New York io scenderò da questa nave. Fran! A un quadro mica puoi dire niente, ma 900 sì. Lo lasciai in pace per un po', poi cominciai a sfinirlo. Io volevo capire perché. Una ragione doveva pure esserci. Uno non sta 32 anni su una nave e poi un giorno d'improvviso se ne scende, come se niente fosse, senza nemmeno dire il perché alla sua migliore amica, senza dirle niente. Devo vedere una cosa laggiù. Quale cosa? Non voleva dirla. E si può anche capirlo, perché quando alla fine la disse, quel che disse fu: il mare. Il mare. Il mare. Pensa a te. A tutto potevi pensare, ma non a quello. Il mare. Io non volevo crederci. Sapeva di presa per il culo, bella e buona. Non volevo crederci, era la cazzata del secolo. Sono 32 anni che lo vedi il mare 900. Da qui. Io lo voglio vedere da là. Non è la stessa cosa. Santi Dio, mi sembrava di parlare con un bambino. E chi te l'ha detto? Gliel'aveva detto un uomo che si chiamava Buster, Lynn Buster, un contadino, uno di quelli che vivono 40 anni lavorando come muli e tutto quello che hanno visto è il loro campo. E uno o due volte, la città grande, qualche miglio più in là, il giorno della fiera. Solo che poi a lui la siccità aveva portato via tutto. La moglie se n'era andata con un predicatore di non so cosa. E i figli se li era portati via la febbre, tutti e due. Uno con la buona stella, insomma. Così un giorno aveva preso le sue cose e aveva fatto tutta l'Inghilterra a piedi per arrivare a Londra. Dato però che non se ne intendeva un granché di strade. Anziché arrivare a Londra, era finito in un paesino da nulla. Dove però, se continuavi sulla strada, facevi 2 curve e giravi dietro una collina, alla fine, d'improvviso, vedevi il mare. Non l'aveva mai visto prima lui. Ne era rimasto fulminato. L'aveva salvato, a voler credere a quel che diceva. Diceva: è come un urlo gigantesco che grida e grida. E quel che grida è: banda di cornuti. La vita è una cosa immensa. Lo volete capire o no? Immensa. Lui, l'imbuster, quella cosa non l'aveva pensata mai, proprio non gli era mai capitato di pensarla. Fu come una rivoluzione nella sua testa. E forse è che 900 anche lui non gli era mai venuto in mente davvero che la vita è immensa. Magari lo sospettava anche, ma nessuno gliel'aveva mai gridato in quel modo. Così se lo fece raccontare 1000 volte da quel buster, la storia del mare e tutto il resto. E alla fine decise che doveva provare anche lui. Quando si mise a spiegarmi, c'aveva l'aria di uno che ti spiega come funziona il motore a scoppio. Era scientifico. Posso rimanere anche anni qua sopra, ma il mare non mi dirà mai nulla. Io adesso scendo, vivo sulla terra e della terra per anni divento uno normale. Poi un giorno parto, arrivo su una costa qualsiasi, alzo gli occhi e guardo il mare. È lì! Io l'ascolterò gridare! Scientifico. A me sembrava la cazzata scientifica del secolo. Potevo dirglielo, ma alla fine non glielo dissi. Non era così semplice. Il fatto è che io volevo che scendesse 900 un giorno o l'altro da lì e che suonasse per la gente della terra e sposasse una donna simpatica, che avesse dei figli. Insomma, tutte le cose della vita, che magari non è immensa, però è anche bella. C'è solo un po' di fortuna e di voglia. Insomma, quella del mare a me sembrava una vera boiata, però se serviva a portare 900 giù da lì, per me andava bene. Così alla fine pensai che era meglio così e gli dissi che il suo ragionamento non faceva una piega e che ero contenta, davvero, e che gli avrei regalato il mio cappotto di cammello. Avrebbe fatto un figurone scendendo giù dalla scaletta col cappotto cammello. Lui era anche un po' commosso. Però mi verrai a trovare, no? Sulla terra. Dio. C'avevo un sasso qui in gola, come un sasso. Mi faceva morire se faceva così. Io detesto gli addii. Mi mise a ridere. Meglio che potevo, una cosa penosa. Gli dissi che certo, sarei andato a trovarlo. E avremmo fatto correre il suo cane per i campi. E sua moglie avrebbe cucinato il tacchino. E non so quale altra stronzata. E lui rideva, e anch'io. Ma dentro sapevamo tutti e due che la verità era un'altra. La verità era che stava per finire tutto e non c'era niente da fare, doveva succedere. E adesso stava succedendo. Danny Butman, T.D. Lemon, 900, sarebbe sceso dal Virginia nel porto di New York un giorno di febbraio. Dopo 32 anni vissuti sul mare, sarebbe sceso a terra per vedere il mare. Primo gradino, secondo gradino, fu al terzo gradino che si fermò di colpo. Se ne rimase lì, immobile, per un tempo eterno. Guardava davanti a sé, sembrava che cercasse qualcosa. E alla fine fece una cosa strana. Si tolse il cappello, allungò la mano oltre il mancorrente della scaletta e lo lasciò cadere giù. Sembrava un uccello stanco o una frittata blu con le ali. Fece un paio di curve nell'aria e cadde in mare. Galleggiava, evidentemente era un uccello, non una frittata. Quando rialzammo lo sguardo verso la scaletta, vedemmo 900 nel suo cappotto cammello, nel mio cappotto cammello, che risaliva quei due scalini, con le spalle al mondo, strano sorriso in faccia. Due passi e sparì dentro la nave. Hai visto? È arrivato il nuovo pianista, disse Neil O'Connor, che era un irlandese che capiva mai un cazzo, ma non c'era verso di togliergli il buon umore, mai. Dicono che sia il più grande, dissi io. E non sapevo se ero triste o felice da matti. Cosa aveva visto da quel maledetto terzo gradino? Non me lo volle dire. Quel giorno e poi per i due viaggi che facemmo dopo, 900 rimase un po' strano. Parlava meno del solito, sembrava molto occupato in qualche sua faccenda personale. Noi non facevamo domande, lui faceva finta di niente. Si vedeva che non era proprio tutto normale, ma comunque non ci andava di chiedergli qualcosa. Andò così per qualche mese. Poi un giorno 900 entrò nella mia cabina e lentamente, ma tutto di fila, senza fermarsi, mi disse grazie del cappotto, mi andava da Dio. È stato un peccato, avrei fatto un figurone, ma adesso va tutto molto meglio, è passata. Non devi pensare che io sia infelice, non lo sarò mai più. Per me non ero nemmeno sicura che lo fosse mai stato, infelice. Il Novecento non era una di quelle persone di cui ti chiedi chissà se è felice quello. Lui era Novecento e basta. Non ti veniva da pensare che potesse centrare qualcosa con la felicità o col dolore. Sembrava al di là di tutto. Sembrava intoccabile, lui e la sua musica, il resto non contava. Non devi pensare che io sia infelice, non lo sarò mai più. Mi lasciò secca quella frase. Aveva la faccia di uno che non scherzava quando la disse, di uno che sapeva benissimo dove stava andando e che ci sarebbe arrivato. Adesso io so che quel giorno Novecento aveva deciso di sedersi davanti ai tasti bianchi e neri della sua vita e di iniziare a suonare una musica assurda e geniale, complicata, ma bella, la più grande di tutte, e che su quella musica avrebbe ballato quel che rimaneva dei suoi anni e che mai più sarebbe stato infelice. Io dalla Virginia ci scesi il 16 agosto 1933. C'ero salita sopra 6 anni prima, ma mi sembrava fosse passata una vita. Non ci scesi per un giorno o per una settimana, ci scesi per sempre, con i documenti di sbarco e la paga arretrata, tutto quanto, tutto in regola. Avevo finito con l'oceano, non è che non mi piacesse quella storia, no, no, ero anche contento, era un modo anche comodo di fare i soldi. Ma solo non mi riusciva a pensare veramente che potesse andare avanti per sempre, perché se fai il marinaio allora è diverso, il mare è il tuo posto, e ci puoi stare fino a schiattare, e va bene così. Ma uno che su una nave suona la tromba, se su una nave suona la tromba, non è che puoi andare avanti per sempre, sarai sempre uno straniero. Prima o poi è giusto che torni a casa. Meglio prima, mi dissi. Meglio prima, dissi a Novecento. E lui capì. Si vedeva che non aveva nessuna voglia di vedermi scendere da quella scaletta per sempre, ma dirmelo non me lo disse mai. Ed era meglio così. L'ultima sera stavamo lì a suonare per i soliti imbecilli della prima classe. Venne il momento del mio assolo. Dopo poche notti sentii il pianoforte che veniva con me, sottovoce, con dolcezza, ma suonava con me. Andammo avanti insieme, io suonai meglio che potevo, oddio, non ero Louis Armstrong, ma suonai proprio bene. Il Novecento che mi seguiva ovunque, come sapeva fare lui. Ci lasciarono andare avanti un bel po', la mia tromba e il suo pianoforte, per l'ultima volta. Lì a dirci tutte le cose che mica puoi dirti con le parole. Intorno la gente continuava a ballare, non si era accorta di niente, cosa ne sapeva, non poteva accorgersi, continuavano a ballare come se niente fosse. Forse qualcuno avrà giusto detto a un altro, guarda quella con la tromba, che buffa, sarà ubriaca o è matta, guarda quella con la tromba, mentre suona piange. Come sono andate le cose poi, dopo essere scesa da lì, quella è tutta un'altra storia. Magari mi riusciva perfino di combinare qualcosa, se solo non si ficcava di mezzo quella dannata guerra, pure lei. Comunque, del Virginian e di Novecento non seppi più nulla, per ananni. Non che me ne fossi dimenticata, Ho continuato sempre a ricordarmene. Mi capitava sempre di chiedermi, chissà cosa farebbe Novecento se fosse qui, chissà che cosa direbbe. In culo la guerra, direbbe. Ma se lo dicevo io, non era la stessa cosa. Insomma, era una storia finita quella, che sembrava davvero finita. Poi un giorno mi arrivò una lettera. Me l'aveva scritta Neil O'Connor, quell'irlandese che scherzava in continuazione. Quella volta però era una lettera seria. Diceva che il Virginians n'era tornato a pezzi dalla guerra. L'avevano usato come ospedale, viaggiante, e alla fine era così mal ridotto che avevano deciso di buttarlo a fondo. Avevano sbarcato a Plymouth, il poco equipaggio rimasto, l'avevano riempita di dinamite e prima o poi l'avrebbero portata al largo per farla finita. Boom! E via. E poi c'era un po' scritto. Gli diceva: ce l'hai $100? Giuro che te li restituisco. E sotto un altro po' scritto diceva: 900 lui mica è sceso. Solo quello. 900 lui mica è sceso. Io mi rigirai la lettera in mano per dei giorni e poi presi il treno che andava a Plymouth. Andai al porto, cercai Virginian, lo trovai. Diedi un po' di soldi alle guardie che stavano lì. Salì sulla nave, la girai da cima a fondo. Scesi in sala macchine. Mi sedetti su una cassa che aveva tutta l'aria di essere piena di dinamite. Mi tolsi il cappello. Lo posai per terra. E rimasi lì in silenzio, senza sapere cosa dire. Ferma lì a guardarlo. Fermo lì a guardarmi. Dinamite dappertutto. Danny Boodman, T.D. Lemon, 900. Avresti detto che lo sapeva, che sarei venuta, come sapeva sempre le note che avresti suonato. Con quella faccia un po' invecchiata, ma in un modo bello, senza stanchezza. Niente luce sulla nave. C'era solo quella che filtrava da fuori. Chissà la notte com'era. Le mani bianche, la giacca ben abbottonata, le scarpe lucide. Mica era sceso lui. Nella penombra sembrava un principe. Mica era sceso. Sarebbe saltato insieme a tutto il resto in mezzo al mare. Gran finale! Con tutti noi a guardare dal molo e da riva il grande fuoco d'artificio. Adieu! Giù il sipario! Fumo e fiamme. Un'onda grande alla fine. Danny Boodman, T.D. Lemon, 900. In quella nave ingoiata dal buio, l'ultimo ricordo che ho di lui è una voce, quasi soltanto, adagio, a parlare. Tutta quella città non se ne vedeva la fine. La fine, per cortesia, si potrebbe vedere la fine? E il rumore su quella maledettissima scaletta era molto bello tutto. E ero grande con quel cappotto, facevo il mio figurone e non avevo dubbi. Era garantito che sarei sceso, non c'era problema. Col mio cappello blu, primo gradino, secondo gradino, terzo gradino. Non è quel che vidi che mi fermò, è quel che non vidi, puoi capirlo? È quel che non vidi. Io lo cercai dappertutto, ma non c'era. In tutta quella sterminata città c'era tutto, ma non c'era una fine. Quel che non vidi è dove finiva tutto quello. La fine del mondo. Ora tu pensa a un pianoforte. I tasti iniziano, i tasti finiscono. Tu sai che sono 88. Su questo nessuno può fregarti, non sono infiniti loro. Tu sei infinito. E dentro quei tasti infinita è la musica che puoi fare. Loro sono 88. Tu sei infinito. Questo mi piace, questo lo si può vivere. Ma se io salgo su quella scaletta e davanti a me si srotola una tastiera di milioni di tasti, milioni e miliardi. Milioni e miliardi di tasti che non finiscono mai, e questa è la vera verità, che non finiscono mai. E quella tastiera è infinita. Se quella tastiera è infinita, allora su quella tastiera non c'è musica che puoi suonare. Ti sei seduto sul seggiolino sbagliato, quello è il pianoforte su cui suona Dio. Cristo, ma le vedete le strade? Anche solo le strade, ce n'era migliaia. Ma come fate voi laggiù a sceglierne una? A scegliere un uomo, una donna, una casa, una terra che sia la vostra, un paesaggio da guardare, un modo di morire. Tutto quel mondo addosso che nemmeno sai dove finisce. E quanto ce n'è? Ma non avete paura voi di finire in mille pezzi, solo a pensarla quell'enormità, solo a pensarla, a viverla. Io sono nato su questa nave e di qui il mondo passava, ma a 2000 persone per volta. E di desideri ce n'erano anche qui, ma non più di quelli che possono stare tra una prua e una poppa. Suonavi la tua felicità, ma su una tastiera che non era infinita. Io ho imparato così. La terra, quella è una nave troppo grande per me. È un viaggio troppo lungo, è una donna troppo bella, è un profumo troppo forte, è una musica che non so suonare. Perdonatemi, ma io non scenderò. Lasciatemi tornare indietro, per favore. Tutto quel mondo negli occhi, terribile. Ma bello, troppo bello. E la paura che mi riportava indietro, la nave, di nuovo e per sempre, piccola nave, quel mondo negli occhi, tutte le notti, fantasmi, ci puoi morire se li lasci fare, la voglia di scendere, la paura di farlo, diventi matto così, matto, qualcosa devi farlo, io l'ho fatto, prima l'ho immaginato, poi l'ho fatto, ogni giorno. Per anni, 12 anni, miliardi di momenti, un gesto invisibile e lentissimo. Io, che non ero stato capace di scendere da questa nave per salvarmi, sono sceso dalla mia vita, gradino dopo gradino, e ogni gradino era un desiderio. Per ogni passo, un desiderio che dicevo addio. Non sono matto, non siamo pazzi. Quando troviamo il sistema per salvarci, siamo astuti, come animali affamati. Non c'entra la pazzia, è genio quello, è geometria, perfezione. I desideri stavano strappandomi l'anima, potevo vivere, ma non ci sono riuscito. E allora li ho incantati, e a uno li ho lasciati dietro di me. Geometria. Un lavoro perfetto. Tutte le donne del mondo le ho incantate suonando una notte intera per una donna, una. La pelle trasparente, le mani senza un gioiello, le gambe sottili. Ondeggiava la testa al suono della mia musica, senza un sorriso, senza piegare la testa, mai. Una notte intera. Quando si alzò non fu lei che uscì dalla mia vita, ma tutte le donne del mondo. il padre che non sarò mai. L'ho incantato guardando un bambino morire, senza perdermi niente di quello spettacolo tremendo e bellissimo. Volevo essere l'ultima cosa che guardava al mondo. E quando lui se ne andò, guardandomi negli occhi, non fu lui ad andarsene, ma tutti i figli che mai ho avuto. La terra che era la mia terra, da qualche parte nel mondo, l'ho incantata sentendo cantare un uomo che veniva dal nord. E tu lo ascoltavi e vedevi la valle, i monti intorno, il fiume che adagio scendeva, la neve d'inverno, i lupi, la notte. Quando quell'uomo finì di cantare, finì la mia terra, ovunque essa sia. Gli amici che ho desiderato, li ho incantati suonando per te e con te quella sera. Nella faccia che avevi, negli occhi, io li ho visti tutti, miei amici amati. Quando te ne sei andato, sono venuti via con te. Ho detto addio alla meraviglia quando ho visto gli immani iceberg del mare del nord crollare, vinti dal caldo. Ho detto addio ai miracoli quando ho visto ridere gli uomini che la guerra aveva fatto a pezzi. Ho detto addio alla rabbia quando ho visto riempire questa nave di dinamite. Ho detto addio alla musica, alla mia musica. Un giorno che l'ho suonata tutta in una sola nota di un istante. E ho detto addio alla gioia, incantandola. Quando ti ho visto entrare qui. Non è pazzia. Geometria. È un lavoro di Cesel. Ho disarmato la mia infelicità. Ho sfilato via la mia vita dai miei desideri. Se tu potessi risalire il mio cammino, li troveresti uno dopo l'altro, immobili, incantati, fermati lì per sempre, a segnare la rotta di questo viaggio strano che a nessuno mai raccontato, se non a te. Già me la vedo la scena, arrivato lassù, quello che cerca il mio nome nella lista e non lo trova, come ha detto che si chiama? 900. Nosinski, Notar Bartolo, Novalis. Nozza. È che sono nato su una nave. Prego? Sono nato su una nave e ci sono anche morto. Non so se risulta lì sopra. Naufragio? No. Esploso. 6 quintali e mezzo di dinamite. Boom! Ah, va tutto bene adesso? Sì, sì, benissimo. Cioè, c'è solo sta faccenda del braccio. Si è perso un braccio, ma mi hanno assicurato. Dovrebbero essercene un paio di là. Qual è che le manca? Il sinistro, aia, sarebbe? Ho paura che siano due destri, sa? Due bracci destri? Già, nel caso lei avrebbe problemi a cosa? Voglio dire, se prendesse un braccio destro al posto del sinistro? Sì. Ma, no. In linea di massima è meglio un braccio destro che niente. È quello che penso anch'io. Aspetti un attimo che glielo vado a prendere. Senta, se mai ripasso fra qualche giorno le fosse arrivato un sinistro. Ne ha uno bianco e uno negro. No, tinta unita. No, niente contro i negri, È solo questione di... Sfiga. Tutta un'eternità in paradiso con due mani destre. E adesso facciamo un bel segno di croce. Non sai mai quale scegliere. Tutta un'eternità, milioni di anni a fare la figura dello scemo. È un inferno in paradiso. Ma c'è niente da ridere. Sai che mani, però che musica. Con quelle mani, due, destre, se solo c'è un pianoforte. È dinamite quella che hai sotto il culo. Alzati da lì e vattene. È finita. Questa volta è finita davvero.